Frattempo di sport con Carlo Genta. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your home. Signori miei, buongiorno. Matteo Comes in regia, Franco Piantanida in redazione. Non a caso Hey Jude, perché siamo anche noi in pieno clima olimpico e Sir Paul McCartney questa sera canterà a Londra questo pezzo immortale. Oggi è una puntata diversa, strana. Io invito tutti quelli che parlano o straparlano di giovani calciatori a chiamarci 800 24 00 24, perché sono con me Paolo Ghisoni da Sky. Ciao Paolo. Buona giornata. E Stefano Olivari, ciao Stefano. Ciao. Rispettivamente autore insieme a Stefano Nava ed editore del secondo volume di Giovane Italia. Non è più 2011 come l'anno scorso, quando abbiamo scoperto Insigne, Verratti e tutti questi ragazzi. E via dicendo, ma è l'edizione 2012, gli Under 19, in cui crediamo. Vi faccio subito a te Paolo una domanda a bruciapelo. Insomma, si è detto Verratti l'abbiamo lasciato andare via, Destro è costato alla Roma un mucchio di soldi, insomma vale la pena investire queste cifre su dei ragazzi che in fondo non hanno ancora dimostrato nulla? Allora, secondo me sono due discorsi diversi. Di Destro si sapeva già da anni, visto che poi mi pare anche già nel 2007 Baldini ha rivelato questo aneddoto che lo voleva portare al Real Madrid, quindi sulle capacità di Destro c'erano pochi dubbi. Sul fatto che Verratti sia un possibile top player del futuro con un campionato di B alle spalle, insomma solo un campionato di B alle spalle, è un po' più dubitativo. Il rischio poi è diverso anche per entrambi. Destro nella Roma al 90%, visto che gli hanno liberato il posto davanti, fa il titolare. Verratti arriva e l'equipe gli titola chi sei Verratti, e non è la cosa migliore, insomma, per un ragazzo del 92 che abbraccia un'esperienza di questo tipo. Insomma. L'avevano fatto anche per Pastore, peraltro, sì. Voglio dire, che era leggermente più conosciuto. No, e poi mi sembra che anche Ancelotti abbia messo il suo carico, dicendo comunque il nuovo Pirlo giù di lì. Sì, lì sai, è una situazione un po' delicata, perché sono arrivati tanti investimenti, un po' come il primissimo City. Poi bisogna vedere se i risultati arrivano, perché se poi alla fine la situazione non quaglia, il primo che paga è il ragazzo inesperto, il secondo che paga potrebbe essere l'allenatore. A me ha fatto molto sorridere quando Ancelotti quest'anno è arrivato e aveva 3 punti di vantaggio il suo predecessore sul Montpellier, e alla fine un'intervista di gennaio: non mi accontento del secondo posto. Sì. No, sei arrivato per vincere. Certo, no? Per chiaro. Adesso gli hanno fatto una squadra che è una corazzata in uno stagno con le paperelle, voglio dire, dovrebbe in linea di massima vincere il campionato francese, se no sarebbe forse uno dei più grandi, grandi sorprese, uno dei più grandi fallimenti. Qualcuno paragona l'esperienza di Mancini al City? No, perché al City insomma, i competitor saranno differenti. I nostri ascoltatori sono al solito molto informati. Giovanni scrive: a me risultava che chiuderà l'Olimpiade Sir Paul McCartney, ed è corretto, ma noi oggi sentiamo musiche che riascolteremo stasera alla cerimonia olimpica. Porando, ma a proposito, quello che si spaccia per Paul McCartney, la solita leggenda metropolitana che è ritornata in questi giorni, l'alieno di Abbey Road che cammina al contrario sulle strisce, sì, tutte cose che fanno parte della mitologia, no? Di questo personaggio. A proposito di miti, almeno in Inghilterra, non è un giovane ma è un vecchissimo. Io nei giorni scorsi ho avuto modo di dar ragione a Paul McCartney quando dice: lasciare fuori Beckham dalla rappresentativa della Gran Bretagna, per quello che rappresenta Beckham, per l'amore che Beckham ha sempre avuto verso la maglia di Sua Maestà, insomma, in una manifestazione come l'Olimpiade in cui il calcio è fatto a pezzeria, a me è sembrata, per usare le parole di Paul McCartney, qualcosa di idiota. Stuart Psycho Pierce se l'è presa e il suo entourage ha detto: non ci interessa il parere della regina d'Inghilterra, di Paul McCartney e di tutte le star di Hollywood, la squadra è questa. Per una volta sono da parte di Beckham, è una delle rare volte, perché Sì. Credo che poi dopo la carriera sia stata molto più artifici e altro rispetto a quello che è stato il vero rendimento del giocatore, però qualche debito di riconoscenza all'Inghilterra ce l'ha. Mi pare una punizione importantissima per portare l'Inghilterra ai mondiali qualche anno fa, quindi sì, era qualcosa di simbolico più che di calcistico, no, Paolo? Sì. In una appunto in una, non è un mondiale, è una competizione in cui tutti gli inglesi si sentono partecipi, grande spirito quello della Gran Bretagna, no? Appunto. Sì. Con una nazionale che nessuno sente come quella della Gran Bretagna. Bravissimo, con una nazionale che nessuno sente. Torniamo a parlare di giovani. Allora, tutti scommettono su una grande stagione di Zeman. Ha la squadra giusta, secondo te? Tendenzialmente sì, nel senso che la squadra potrebbe essere come individualità quella giusta. Poi dopo la pressione di Roma, lui ha un discreto bonus da giocarsi e si vede l'entusiasmo che lo sta accompagnando in queste primissime uscite. Poi bisogna vedere se riaffiorano i motivi per cui la Roma di Zeman degli anni precedenti, di 10 anni fa, insomma, ha perso o comunque non ha conquistato il campionato, perché poi bisogna vedere sempre qual è il presupposto del progetto Roma. L'anno scorso Luis Enrique ha fatto quello che sostanzialmente ci si aspettava, mettendoci comunque molto del suo. Quest'anno qual è il presupposto? La Roma parte per che cosa? Nessuno ce l'ha ancora detto, no? Lui è sicuramente l'allenatore ideale per valorizzare tanti giovani. Deve anche partire per divertirsi. Però la gente a Roma dopo Luis Enrique, che praticamente il progetto era sempre la stessa cosa, no? Calcio spumeggiante, però mi pare che Totti sia stato chiaro, a Roma si deve vincere. Sì, però sai, io credo che vengano sottovalutati in questo senso i tifosi, questo discorso vale anche per il Milan, per l'Inter, basta essere chiari con loro, no? Io non credo che, anzi sono certo che la maggior parte dei tifosi del Milan arrabbiati certamente per l'addio di Ibrahimovic e di Thiago Silva, per questo smontare la squadra, non c'è più la colonna vertebrale degli anziani, eccetera, però siano disposti anche ad accettare alcune stagioni di ricostruzione, magari proprio basate sui giovani e su una attenta politica dei giovani, siano disposti a veder crescere una squadra senza andare a chiedere la restituzione dei soldi dell'abbonamento. Concordo, secondo me si può fare, anche perché Allegri ha dimostrato in alcune partite importantissime del primo scudetto di fare a meno di Ibrahimovic e anche di Thiago Silva. Quindi le idee chiare tatticamente le ha valorizzato giocatori che sono stati presi parametro zero e credo che se arrivano due o tre buoni discreti giocatori, non magari nemmeno top player, però Milan da questo punto di vista non ha bisogno di consigli, quest'anno sarà comunque una squadra che darà fastidio comunque alle primissime della classe, se non può essere lei la primissima della classe. Altro pezzo mitico che sentiremo stasera, London Calling, come avete sentito, apprezzato, capito, riconosciuto, quindi anticipiamo, visto che non abbiamo il video, anticipiamo almeno i suoni della cerimonia di apertura, poi Cesare Ricci che ci racconterà che cosa sta succedendo intorno a quello stadio, al momento ovviamente ancora blindatissimo. Allora, Paolo Ghisoni e Stefano Olivari qui con me, Giovane Italia 2012, gli Under 19 in cui crediamo, quali sono? Sono 300, quanto abbiamo di trasmissione? Sempre la solita oretta. Però qualche, no, c'è da fare qualche nome. Una distinzione sul fatto che abbiamo aumentato in maniera vertiginosa il numero rispetto ai 222 dell'anno scorso, perché obiettivamente l'anno scorso i 96 sono stati un po' trascurati, quest'anno nel senso che erano pochi, quest'anno i 97 alla fine che sono a categoria giovanissimi hanno vissuto una stagione molto interessante portando alle finali tutte le big, allora a quel punto abbiamo detto perché non precorrere ancora di più il futuro cercando di andare a scommettere su dei ragazzi che sono veramente dei pischelli. Sì. l'altra cosa, abbiamo inserito le foto, perché le foto per i genitori sono fondamentali, insomma, no, anche per i ragazzi e per gli addetti ai lavori, perché molte volte uno arriva su un campo, vede la distinta, però la fisionomica di un giocatore non è immediata, quindi anche quello potrebbe essere una cosa che agli addetti ai lavori può servire. Abbiamo aggiunto le pillole di gioventù, che sono degli spaccati dei racconti, insomma degli aneddoti di gente, calciatori straffermati che ci raccontano un po' alcune situazioni carine che sono capitate loro durante il periodo della primavera, insomma del settore giovanile. E dicevamo proprio in chiusura che avremmo voluto mettere anche una sezione dedicata ai maestri di calcio, sì, che sono quelle persone che hanno avuto una resa economica inversamente proporzionale alla passione che hanno riversato su molti ragazzi. Senti Paolo, io ho un sacco di messaggi anche carini. Uno non c'entra nulla con i giovani, ma lo leggo lo stesso perché mi ha fatto ridere, ed era di un ascoltatore, ecco, Guerrino, che scrive: per la prima volta è la prima volta che mi sento vicino a Galliani, abbiamo lo stesso problema, i soldi. Beh, no, poi ce ne sono invece molti altri, ad esempio concordo con te, sono Roberto, tifoso interista, disposto a digiunare ancora per vedere i giovani al lavoro, viva l'Inter, il calcio pulito, vabbè, queste cose vanno bene. Domanda invece diretta a voi due: meglio lo Juventino Leali o l'interista Bardi come futuro Buffon? Scrive Damiano. Domanda Damiano da Reggio Emilia. La struttura da Buffon c'era più Leali, però l'esplosività e la freddezza. Poi Bardi ha una caratteristica incredibile, che è quella di parare rigori a istinto, cioè lui lo ha sempre fatto nelle categorie precedenti, quelle del vivaio. Gli ho chiesto più volte come fai e lui non ha riferimenti, cioè non è Buffon che si può studiare come calciano gli avversari. Lui dice: io vado semplicemente a intuito, però ha delle percentuali molto alte. Insomma, l'Inter ha vinto un torneo di Viareggio arrivando in finale vincendo due partite con Atalanta e Genoa ai rigori, dove è stato protagonista. Quest'anno con Livorno, in un paio di circostanze, ha comunque fotocopiato questa caratteristica. Però dire chi è meglio, come dire, sì, chi è meglio tra, insomma, periodo precedente, Pagliuca e Peruzzi. Vedremo. Bravo. Senti, Massimo da Milano, Manuele da Vicenza, cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Massimo. Sì, buongiorno. Senta, io volevo provare l'argomento che il calcio scommesse, che non c'entra molto con quello che... C'entrano tutti, perché questo è un happening in cui tutti siete convocati. Mi riferisco a due mesi fa, scusi. Lo sto dicendo, è un argomento di due mesi fa che adesso secondo me è tornato d'attualità, ma vedo che non ne parla nessuno. Eravamo due giocatori della nazionale indagati per il calcio scommesse, uno era Bonucci, l'altro era Criscito. Sì. Criscito fu rispedito a casa per un presunto codice etico e Bonucci rimase in nazionale. Sì. E riscopriamo che invece uno dei due che era più invogliato era Bonucci. Poi lo... sì, Massimo. Qualcuno secondo me dovrebbe quantomeno chiedere scusa a Criscito. Io non sono onestamente né tifoso di Criscito. Ma guardi, mi sembra che la vicenda sia stata spiegata abbondantemente. Ieri abbiamo conosciuto qual è la posizione, peraltro molto grave, di Bonucci. Risulta che su Criscito ci fosse un documento, che su Bonucci, procure diverse che indagavano, una Cremona, l'altra Bari, che su Bonucci non c'era. Dunque Prandelli ha detto: in queste condizioni Criscito non ha la serenità. Bonucci, che peraltro ha fatto un grandissimo europeo, ma questo nulla c'entra con il codice etico e con scelte di questo tipo, anche da un punto di vista formale, su Bonucci non pendeva al momento alcun documento arrivato da una procura, no? C'era parlato un attimo di un ritardo presunto nella consegna del documento, perché la procura di Bari aveva inviato un po' in ritardo l'eventuale documento. Poi dopo, onestamente, durante l'europeo si sono perse le tracce di questa piccola polemica. Mi ricordo questa cosa, perché ero in vacanza e ho letto questa situazione. Sì, ma comunque è un po' processo alle intenzioni. No, sì. Certo, questo sicuramente dal punto di vista legale, però è chiaro che la situazione emotiva e di opportunità, ecco, non è cambiata da una settimana all'altra, insomma. E penso che il senso della domanda fosse appunto questo, ecco, sicuramente c'è stata una disparità umana di, di trattamento. Tanto più che Bonucci sapeva benissimo quello che o avrebbe dovuto sapere benissimo ciò che sarebbe successo, no? Non poi, dico quello che ha fatto perché non lo possiamo dire, ma quello che stava emergendo, poi quello comunque che emergendo, c'era poi il dubbio che recuperasse o meno Chiellini, si era parlato appunto di riportare un giocatore eventualmente in nazionale. Crescito aveva detto pronti via, se c'è uno danneggiato comunque che deve tornare sono io, perché Prandelli mi ha garantito che eventuali esclusioni rivedendo un po' la situazione mi avrebbero riportato nel gruppo, insomma. Quindi vicenda mal gestita, malissimo. Tutti d'accordo su questo punto. Manuele, Vicenza. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere la sua opinione su Petrovic e la Lazio, e in più volevo sapere se non c'è un regolamento UEFA che dice che se una società, al momento che l'Udinese che è indagata per il calcio scommesse, non dovrebbe neanche entrare in Europa. Quindi in Champions League non dovrebbe andarci la Lazio? Grazie. Questo non so rispondere. L'Udinese insomma, ha ricevuto il documento della Procura federale con l'accusa di responsabilità oggettiva. Dunque non so se esista questo regolamento preclusivo a prescindere da un giudizio che non è ancora stato emesso. In caso di giudizio sì, appunto, però non è... Cioè, siamo all'avviso di garanzia, sì. No? Quindi non alla sentenza di condanna, dunque mi pare che da un punto di vista anche formale e anche giuridico la situazione stia in questi termini. Poi la Lazio comunque ha era anche... messa meglio comunque. Appunto, no, sì, esatto. Appunto. Sì, a parte questo. Ma ultimo preliminare iniziato, non ci sarebbero comunque neanche in caso di giudizio i tempi per lo slittamento, cioè dal... Quindi sicuramente, no? Eventualmente dovesse emergere qualcosa, ecco, le italiane sarebbero, si ritroverebbero a essere due. Intanto io, ragazzi, vi butto lì in ordine sparso nomi che voi conoscete, io meno, mi arrivano via SMS, perché c'è Luca da Verona che chiede un parere su Fokezato, difensore centrale del Chievo, che sembra veramente forte. La scuola Inter, sì, ne abbiamo un po' perse le tracce. Noi abbiamo un metodo di lavoro che è molto semplice, non è sgravarci di responsabilità. Noi abbiamo una prima scrematura di ragazzi, dopodiché ci confrontiamo con i responsabili del settore giovanile, non ci confrontiamo con procuratori, questo è il nostro piccolo vanto, non ci confrontiamo con i genitori, perché altrimenti diventeremo pazzi. E quindi molte volte arriva la... Sì, scrivono tanto, veramente... Vabbè, lasciamo perdere. Deve essere di 3.000 il sì, libro. Non capisco la più ridicola, e non capisco come non avevate preso in considerazione il ragazzo. E io allora, molto, in maniera molto cordiale, questa la racconto sempre a Stefano, questa aneddoto, dico grazie, magari la prossima edizione cercheremo di fare una sezione segnalati da voi, ma mi dice cortesemente il cognome, perché chiaramente ti arriva nome e cognome del ragazzo. E la cosa fantastica è che ti rispondono con il cognome del ragazzo, quindi vuol dire che è o il papà o lo zio o il cugino, quindi ingenuità più totale. Di Fokezato onestamente non abbiamo molte notizie dal Chievo, credo che potrebbe essere uno di quelli teoricamente dentro nei 300, però quest'anno il Chievo a livello primavera non ha ripetuto le prestazioni degli altri anni. Chi sta lavorando meglio come club sul settore giovanile? Sono sempre un po' le solite, cioè fino a qualche anno fa, vabbè, l'Inter ha vinto tutto quest'anno, quindi cosa gli vuoi dire? Ha vinto campionato Beretti, campionato primavera, campionato giovanissimi, ha perso le finali agli allievi nazionali. Però voglio dire, insomma, è la squadra che a livello risultati ha sicuramente il plus. Nonostante la Dio di Pea, sì, però voglio dire, Pea l'anno scorso era già destinato a una carriera, sì, a livello Serie B. Io direi la Roma ancora, perché comunque ha una scuola molto produttiva, è fatto di individualità. Il Milan quest'anno non ha ottenuto molto, però mi dicono che sta lavorando molto bene sulle basi. È ripartito da zero. Milan è ripartito quasi da zero. Sì, la Juventus anche ha molti giocatori. Ecco, il caso della Juventus è strano, perché magari vince solo il torneo di Viareggio, però poi è la squadra che a livello individualità piazza il maggior numero di giocatori insieme alla Roma nelle realtà cosiddette minori. Infatti uno dei progetti al di là della scuola che hanno fatto a Vinovo, dal punto di vista, ecco, una cosa che mi piacerebbe molto sottolineare è questa, che la Juve sta anche cercando di creare un modello dal punto di vista educativo, ha praticamente creato un liceo all'interno di Vinovo, perché l'importanza del fattore scolastico è molto importante, quindi quest'anno gran parte dei ragazzi che sono in convitto andranno a scuola a Vinovo, in una struttura privata. Tendenzialmente quello che fa la Juve è mandarli a crescere, perché la prima squadra ormai ha vinto lo scudetto, non siamo più ai tempi di quando doveva fare un'esperienza in campionato di Serie B, quindi non possono più esordire i vari Marchisio, De Celli e Giovinco, tutti quelli che sono diventati comunque dei giocatori fatti e finiti. Appunto, li parcheggia, però la volontà fino a poche stagioni fa era creare, che poi è un progetto che non si realizzerà mai, credo, in Italia, una sorta di società satellite. Sì. Era stato individuato allora il Casale, però Casale è una piazza fortemente a connotazione granata. Buoni in anteprima dalla cerimonia olimpica, almeno la scaletta la conosciamo bene. Paolo Ghisoni e Stefano Olivari, conoscete questa? No. No. Stefano? No. No. Take me out, Franz Ferdinand. Sono vi siete resi subito. Sì. Chiedici di fuoco esatto. Okay. C'è chi scrive della primavera del Varese, cui rubarono lo scudetto 2011, non parlate, il Varese sta facendo miracoli. C'è Paolo da Varese, però in linea magari vuol parlare a voce. Sì, però rubarono è un termine un po' forte. Un po' forte. Insomma, se c'è un portiere che al 93esimo esce a far falle, gli altri segnano. Cioè, non è che... Paolo? Sì, pronto. Eccoci. Grazie mille per darmi la possibilità di intervenire, è sempre un piacere, e ci vorrebbero probabilmente 10 ore di diretta per parlare di sport con voi, con te, perché siete molto esperti ed è un gran piacere sentirvi. Grazie. Quindi piacerissimo parlarci. Niente, io volevo solo porre l'attenzione su una cosa, mi fa piacere vedere che le società di calcio professionisti che stiano lavorando finalmente in modo grosso nel settore giovanile, cosa che nel basket, io sono giocatore e allenatore giovanile, si sta facendo già da anni, perché forse abbiamo capito prima che quando ci sono meno soldi conviene costruire dei giovani da avere nelle proprie prime squadre per spendere di meno, e quindi questa è una legge di mercato, diciamo così. Sì. E mi riallaccio al discorso degli ingaggi dei giocatori in questo senso. Settimana scorsa ho letto sulla Gazzetta che Da Tome, giocatore di Roma, ha accettato la proposta della società per ridursi l'ingaggio della stagione successiva di ben, dico io, 100.000 euro. Chiaramente giocatore di basket e quindi di parte. Mi sono posto una domanda: nessun giocatore di calcio ha fatto una roba del genere, almeno a me non è giunta notizia. Non lo so, insomma, c'è una differenza tra l'atteggiamento che può avere un giocatore di basket e quello che invece hanno i giocatori di calcio, gli ingaggi di Ibrahimovic. Anche i giocatori di calcio hanno accettato spalmature, hanno accettato... Redondo ha rinunciato quando era al Milan, a proposito di Milan, proprio lo stipendio, perché finché non era integro, che non l'ho più stato, non ha più percepito lo stipendio. Damiano Tommasi, infortunato, è rimasto a 1.500 euro al mese. Mi ricordo anche Coco, forse un anno con l'Inter. Quando... Di solito in chiave mercato lo si dice, e pur di venire da noi si è autoridotto l'ingaggio, poi quell'autoriduzione gli viene corrisposta. Da un'altra parte, arriva in un altro modo. Però ecco, sì, l'esempio di Datome poi è un buon esempio, perché lui guadagnava 350 l'anno, quindi di fatto è un quarto dello stipendio. No, ma merito suo, ho capito qual è il momento, ma dovrebbero capirlo tutti qual è il momento. Antonio Bologna. Buongiorno, salve, mi scusi, Sione. Volevo parlare con il suo esperto, perché io magari, sa, come ha detto prima il suo collega Paolo Ghisoni, i genitori non dovrebbero far parte del mondo del calcio, però è una curiosità mia, perché da 4-5 anni a sta parte c'ho un ragazzino che continua a fare la media dai 40 ai 60 gol l'anno, premiato ogni anno come avrà 6-7 statuette come capocannoniere, 3-4 come miglior giocatore, ma continua a dire nell'ambito bolognese, dico, che è ancora piccolo. che non è grande, che deve farsi così. Ora, siccome un paio d'anni fa, mi ricordo, penso con il suo collega Garanzini, mi sembra che Rivera diceva che bisognava privilegiare la tecnica più che il fisico. Sì. Guardi Antonio, io le lascio rispondere da Paolo Ghisoni. Io tendenzialmente mi fiderei di quello che dicono, bisogna privilegiare la tecnica al fisico, però ad esempio nel calcio di oggi un giocatore come era il primo Rivera farebbe fatica a starci con questa intensità fisica. Bisogna avere grande pazienza e soprattutto, dal mio punto di vista, lasciare che i ragazzini si divertano senza mettergli addosso eccessive pressioni. È vero, però il caso di Giovinco, a proposito di un giocatore non strutturato, insomma, mi sembra sia abbastanza eclatante. Cioè, Seba è dell'86, ha 26 anni, a parte che per anni è sempre stato considerato un giovane, non so fino a che leva calcistica, però lui ha sempre combattuto tutti gli anni con questa nomea, ma da quando era un ragazzino della Juve, poi dopo in Primavera, poi dopo nell'Empoli, poi ricordo, tanto per fare un esempio, visto che non bisogna farsi influenzare dai giudizi dei media, un giornale che per tutto, un quotidiano sportivo molto famoso che per tutto l'anno lo incensa come il nuovo Messi, poi dopo cambia il pagellista, vede una partita di Giovinco assolutamente anomica, ma chi è che aveva avuto il coraggio di paragonarlo a Messi? Il tuo giornale, cioè fino a prova contraria, quindi è stata una cosa che gli ho fatto vedere, ha fatto molto ridere. E lì, sai, la maturazione anche per una questione di latinità è sempre più avanti, no? E noi invece abbiamo a che fare con gente che per una questione tipo Spagna, per una questione di capacità li fa giocare presto, cioè Iniesta, Xavi e tutti quelli del Barcellona giocavano insieme da quando avevano 12-13 anni, li hanno portati su finché sono arrivati a giocare senza pressioni esagerate, certo, nel Barcellona. Giocare insieme da 10 anni vorrà pure dire qualcosa, no? C'è da dire una cosa, ecco, fra le tante interviste 300 che ha fatto Paolo, mi colpisce a questo proposito questa ideologia della massa, cioè metà dicono deve mettere su massa, deve mettere su chi, in qualsiasi fascia di età, ecco, quindi parliamo di allenatori tutti bravi, preparati, che hanno studiato eccetera, quindi diciamo che è un po' un'ideologia diffusa, ecco, quello del fisico possibilità di carriera, ecco, quindi non è del tutto sbagliato, ecco, dire che questa ideologia forse ha fatto dei danni. Certo è che senza il fisico non rimani giochi nel calcio oggi, a 5. Nello sport di oggi una struttura fisica da atleta devi averla, anche se sei alto come Giovinco. Cioè no, ma Giovinco, ragazzi, fisicamente, atleticamente buttalo giù. Prendilo e poi buttalo giù. No, ma cioè, abbiamo l'esempio di Messi, voglio dire, senza arrivare a lui, però Giovinco ha un'esplosività sulle gambe, forse quello dicono, cerchiamo di lavorare sull'esplosività nel riempire un giocatore. Sì. Poi però bisogna fare i conti con quello che madre natura ti dà. Se sei piccolo vai avanti ugualmente, perché tanto la possibilità di emergere ce l'hai. Certo, l'80% degli allenatori, soprattutto nelle primissime fasce dei calciatori, guarda la fisicità, guarda il fatto che uno ha di 1,80 m a 15 anni, ti fa vincere magari il campionato perché ti segna sul calcio piazzato, visto che adesso l'importanza di calci in posizioni inattive è fondamentale, insomma. Però non è tutto, no. fisico non è tutto assolutamente. Dario Ricci da Londra, ciao Dario. Ciao a tutti, qua ci vuole il fisico anche per reggere l'Olimpiade, stai al fresco, Dario. Qui ci sono 35 gradi. Oggi per fortuna, no, siccome siamo diventati londinesi in un paio di giorni, cominciamo a parlare del meteo, ragazzi, tipicamente inglese. Ma oggi non è un argomento banale, No, perché innanzitutto è rinfrescato e questo ci fa sicuramente bene, visto che ha fatto un paio di giornate a 30 gradi. Oggi cielo plumbeo, stamattina la BBC, previsioni meteo, garantiva che non avrebbe piovuto. In realtà sembra che qualche goccia potrebbe farla, state tranquilli che il fuoco olimpico quello non si spegne, però magari sai, maxi schermi ad Hyde Park è meglio portare l'ombrellino, il keyway, per godersi la festa. Quel fuoco chi lo accende? Eh, saperlo prima faremo un bello scoop, purtroppo non posso garantirvelo. Dovessi scommettere, visto che tanto anche qui va parecchio di moda, direi a questo punto Redgrave, il grande canottiere. Perché che si è chiuso in un silenzio preolimpico, ha detto quelle frasette che ogni tanto ti fanno capire, ha detto, dice, no, è meglio non dir nomi perché poi il nome si brucia, eccetera, eccetera. Ieri circolava anche il nome di Bannister, l'atleta che per primo abbatté il muro dei 4 minuti sul miglio, però è un po' avanti con l'età, in realtà. Sì, sì, quindi dovrebbe essere il Grave, l'importante è che non succeda come con Kenteris ad Atene, quella storia della... Te ricordi? No, con la fuga. La fuga in motorino. Ah, sì, scusami. La fuga in motorino doveva essere lui. Latano. E Latano. Lui, l'ultimo tedoforo, poi erano zeppi di sostanze proibite come uova e finì in un'altra maniera. Dario, c'è domani subito, stasera Valentina Vezzali porterà la bandiera col suo sorriso più bello, però domani deve prendere il fioretto e fare la faccia cattiva. Sì, è veramente adesso, piano piano che ci avviciniamo a queste ore decisive per l'Olimpiade, perché l'inizio è quasi tutta l'Olimpiade, perché poi il canovaccio sarà quello, ma l'inizio dall'impronta, però ci si rende conto che è un'impresa non da poco, anche se poi questa cerimonia durerà meno, oddio, c'è ora in quarto, anche se poi di fatto il CONI ha preparato un blitz per Valentina che tutto sommato in un'ora e qualcosa di più dovrebbe cavarsela, ma trovarsi poi domani in pedana contro due avversarie, basta fare i nomi delle altre due azzurre, di Francesca ed Enrico, contro qualche coreana, il cinese, eccetera, eccetera, per giocarsi il quarto oro consecutivo nella gara individuale, è veramente una cosa che forse solo la Vezzali può riuscire a pensare. Bene, altre per chiudere, altre notizie dal clan azzurro? Altre notizie dal clan azzurro, diciamo che nelle qualificazioni dell'arco, nelle prove dell'arco, il turno preliminare, risultati non esaltanti per gli azzurri, probabilmente condizionati anche dal meteo, perché finora ci si era allenati con tutt'altra visibilità, ma intanto si sta facendo la gamba anche per la prova su strada, no Carlo? Domani sarà, certo, grande spettacolo, 1 milione in gli spettatori previsti, con arrivo proprio sotto Buckingham Palace, scenario straordinario. 4 anni fa non è che era andata peggio, perché eravamo arrivati con la gara sotto la grande muraglia. Oggi gli azzurri sono andati a testare il percorso e si lavora molto dal punto di vista tattico, perché bisogna far saltare lo schema previsto da Inghilterra e Australia per arrivare in volata, perché tutti aspettano Mark Cavendish, sì, e bisogna inventarsi qualcosa per far saltare per far questo piccolo sgarro a Cavendish e alla regina. Life's a race, I'm gonna win, yes, I'm gonna win, and I'll light the fuse, and I'll never lose, and I choose to survive, whatever it takes. Beh, questo lo sapete, ragazzi. Siete rimasti, beh, questa fa in tempo a uscirvi dalle orecchie, tempo alla fine delle Olimpiadi, perché è l'inno ufficiale dei news, si intitola, sì, Survivor, quindi se non la conoscete adesso sta tranquillo Stefano Olivari, sta tranquillo Paolo Ghisoni, che tra 15 come giorni la canti in macchina tutti i giorni. Tu guarderai soprattutto il tennis, ti interessa, sì, soprattutto il torneo di tennis, sì, dove non c'è Nadal, sì, dove però non c'è Nadal. Quindi? E quindi la curiosità, è tutta su Federer. La curiosità è perché Nadal non ci sia, anche dal mio punto di vista, però vabbè, lì entriamo in un campo un po' particolare e non lo so. Quale sarebbe questo campo particolare? No, lasciamo perdere perché sono già successe in altre situazioni, il fatto che tu dica, beh, è strano, insomma, tutto sommato un atleta che deve portare la bandiera rinunci Abbiamo parlato poco fa, no? Beh, vabbè, lui dice che l'ha fatto per Feliciano López. L'ha fatto per Feliciano López, per far entrare lui. No, Federer e anche Murray, direi. Perché la finale di Wimbledon qualche spiraglio lo ha concesso a Murray, soprattutto il torneo che ha fatto. Io sono sempre convinto che alla fine la motivazione e comunque il fatto di mare, di giocare davanti al pubblico in casa, possa essere da un certo punto di vista penalizzante, motivante e penalizzante, perché lui questa pressione sicuramente la cura. Sentirà. E poi se arrivi in finale e non giochi con Federer, magari ce la fai. Se giochi con Federer e capisci subito dai primi 3-4 game che non è sceso dal letto col piede sbagliato, non c'è molta storia. Federer che ha lasciato la bandiera a Wawrinka, ha detto io l'ho già fatto due volte, so com'è avanti un altro, perché è giusto che anche altri provino questo tipo di emozione. È stato bel gesto. Giusto, sì, no? Giusto. Sì, c'è chi dice anche che l'ha fatto con una motivazione un po' anche alla Pellegrini, cioè per non stare 4 ore in piedi in palato, visto che inizia già subito il torneo di tennis. La Coppa Italiana femminile come la vedi? Benino, hanno acquisito una bella... Pennetta Schiavone. Sì, io parlavo più di Arani Vinci, onestamente, Vinci. Perché Pennetta e Schiavone si sono aggregate dopo sulla scia emotiva e dei risultati di Arani Vinci. Sì. Arani Vinci invece sono una coppia molto più assortita dal punto di vista tennistico, nel senso che Arani è una che da fondo è piuttosto solida e Roberta invece è una delle migliori, anzi sono... credo la miglior violetta del circuito a livello femminile. Le altre due sono due prime donne che sono state messe insieme per giocare un doppio e strada facendo, prima ancora che Rani Vinci ottenessero questi risultati, strada facendo hanno ottenuto comunque una discreta affidabilità, e credo siano anche diventate discretamente amiche sulla scia del fatto che prima erano le prime due che vincevano, adesso ci sono Rani Vinci che hanno preso un po' i titoli e quindi ci sia anche un'operazione un po' di conquista della simpatia da parte loro, e a tutto a beneficio del risultato, cioè la competizione stimola il fatto soprattutto tra le donne di voler primeggiare. Tu cosa guarderai Stefano Olivari alle Olimpiadi? Beh, io ci andrò per il basket, vedrò la seconda settimana del torneo di basket. La medaglia d'oro più scontata della... Medaglia d'oro più scontata, del millennio. Come dicono anche le quote, come dicono le amichevoli che abbiamo visto sul sito della FIBA. Gli Stati Uniti hanno fatto una squadra proprio indigesta per tutte le squadre FIBA, cioè di fatto senza centri. E abbiamo visto LeBron James praticamente giocare da 5 contro la Spagna in nell'amichevole che hanno fatto. Traduci per i non... Da 5, cioè 5. Da pivot, okay. Da centro, da lungo. Parlavamo prima di fisico, con quel fisico, 2 metri e 2 metri 6, 2 metri 7, con quel fisico, a livello FIBA può fare quello che vuole. Cioè. Tutti immarcabili, tutti versatili, Durant, Kobe Bryant, eccetera, quindi possono essere battuti solamente in una grande serata di tiro e con 40 minuti di zona. La Spagna ci ha provato, la Spagna di Scariolo, per 10 minuti, così, prove tecniche di finale, voglio dire, battezzare proprio i tiratori americani e sperare, ecco, quindi. Non la mettano però. Enrico Modena, buongiorno. Sì, buon pomeriggio a lei e tutti i suoi ospiti. Adesso so che stavate parlando di Olimpiadi, non so se sono fuori tema. Non esiste un fuori tema in questa trasmissione. Solo ve lo volete mettere in testa, qui vale tutto. No, volevo solamente parlare del settore giovanile che sentivo prima che parlava con i suoi ospiti. Certo, volevo solamente chiedere innanzitutto cosa è successo all'Ajax, che negli anni 90 sfornava uno dopo l'altro di campioni che nessuno conosceva. E poi anche se si poteva fare, questo è molto più attuale, un parallelismo tra quello che è successo al Bayern Monaco qualche anno fa, quando ha fatto un campionato anonimo, non qualificandosi nemmeno per una coppa, però da quel momento lì in poi ha avuto dei giovani che sono diventati a supportante anche della nazionale. Quindi se anche magari il Milan potesse fare un anno o due di transizione, con la consapevolezza che magari il futuro potrebbe sorridergli, erano solo. Bella domanda. Io rispondo sulla Bundesliga, visto che sono un po' più ferrato. Cioè, per la Federazione Tedesca, i Mondiali del 2006 sono stati un'occasione per svecchiare e rifondare il movimento. Hanno investito moltissimo sugli stadi, hanno investito moltissimo sui vivai. L'età media del campionato tedesco è 24-25 anni, su tutti i dati che mi ha dato Pietro Nicolodi, che è mio collega di Sky, ferratissimo sulla Bundesliga. La percentuale di giocatori che escono dai vivai e che giocano in Bundesliga sono intorno al 20%, in Italia dalla primavera alla Serie A, Serie B c'è una percentuale vicina al 4-5%, quindi è facile ricostruire e riportare con chiaramente il senno di poi, con la possibilità di poter lavorare tranquillamente, la squadra come il Bayern, che ha comunque tantissimi introiti anche su altri versi, su altri fronti, riportarla in tre anni due volte in finale di Champions League. Loro poi hanno anche gente capace, certo, che sa aspettare il giocatore, perché poi Müller era uno che fino a tre anni fa giocava nella Serie B del Bayern, mm, con poca continuità. L'anno dopo te lo ritrovi al Mondiale. Quindi Tanto ieri c'è stata la serata dei calendari, l'anno scorso era finita, come vi ricordate? Così. Qui ci siamo un attimo distratti, io mi avvicino qui all'amministratore delegato Paolillo, perché magari se mi portate un microfono, ma comunque testimone oculare Mario Sconcerti, c'è stato un piccolo colpo di scena, fuori onda diciamo così, anche se eravamo in onda in realtà, con il presidente De Laurentiis che se n'è andato. È l'Italia che si sente presa in giro. Sono rimasto in questo paese, mi vergogno di essere italiano. Se la vita mi sono sempre vergognato di essere italiano. Dunque, l'anno scorso, vi ricorderete, era finita così la notte dei calendari. Quest'anno com'è andata? Questa è un'ultima giornata fatta a favore di Juventus e Milan. Lo si sa che probabilmente in Lega ci sono figli e figliastri, no? Quindi è chiaro che sarebbe stato molto più tutelato il campionato se le cinque squadre più rappresentative in termini di audience e di supporters fossero state ragionevolmente in una situazione di così competizione più equilibrata. Mettere la Roma e il Napoli all'ultimo chiaramente favorisce Juventus e Milan. Il motorino è ritornato, mm-hmm. Paolo? Sì. Cosa ne pensi di queste esternazioni? Allora, io farei notare due cose. Sì. Adesso non ricordo l'anno. C'è stato un anno che Milan e Juventus hanno giocato praticamente l'anno in cui vinse il campionato Milan battendo. No, l'anno in cui la Juve vinse San Siro con la rovesciata di Del Piero e gol di Trezeguet era credo la penultima giornata e quindi si decise lo scudetto. 2005. Quindi se ti devi giocare lo scudetto anche all'ultima con la Roma, credo che non ti faccia proprio schifo. No. Però la frase che mi ha colpito è il fatto che l'anno scorso lui disse proprio mi fa schifo questo paese, me ne sto andando. Ieri sera ho sentito la stessa frase, tanto io me ne sto andando dall'Italia. Sono passati 12 mesi però è sempre si qua. Vede che fa fatica a preparare le valigie. Devo chiudere, vi ricordo, lettura per l'estate, Giovane Italia 2012, gli Under 19 in cui crediamo, di Paolo Ghisone e Stefano Nava, Olivari editore. Noi ragazzi torneremo a parlare al più presto. Quando vuoi. Grazie Paolo Ghisone, grazie a Stefano Olivari, Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia. Domani Olimpiadi dalle 17 alle 18, c'è Claudio Arrigoni.